Radio 24 Reportage. Aria nuova in città. Viaggio attraverso le pratiche di mobilità sostenibile in Italia. Di Cristina Carpinelli. Il 59% degli italiani, secondo un sondaggio realizzato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, percepisce l'inquinamento atmosferico come uno dei più grandi rischi per la salute. Stando alla stessa fonte, l'Italia è il paese europeo che registra più morti premature a causa dell'inquinamento dell'aria. L'area più colpita resta la pianura padana, con una concentrazione media annua di 25 microgrammi per metro cubo d'aria. Dunque abbiamo due dati: l'aumento della sensibilità individuale rispetto al problema e una situazione collegata allo smog ancora oggi oltre i limiti tollerabili dalla legge e dal nostro corpo. Certo, aumentando la sensibilità sono in parte migliorate anche le buone pratiche individuali, ma non basta, siamo ancora oltre i limiti di PM10 nell'aria. Lo conferma il dato diffuso l'anno scorso da Legambiente. In 7 anni, dal 2009 al 2015, sono state sempre le stesse città a sforare per 35 giorni consecutivi il limite giornaliero di 50 microgrammi di PM10. Molto spesso sono città in cui è stato anche fatto un lavoro di intervento in direzione di una mobilità sostenibile, come ci spiega Alberto Fiorillo, responsabile della mobilità urbana di Legambiente. Abbiamo due tipologie di centri urbani completamente differenti tra di loro. Alcune città dove il servizio di trasporto pubblico è inefficiente, dove ci sono poche isole pedonali, dove ci sono poche infrastrutture per la ciclabilità e conseguentemente dove c'è un elevatissimo uso dell'automobile privata, cioè penso Frosinone così come a Vibo Valentia. Poi invece abbiamo altre città dove, anche avendo fatto interventi di qualità sul trasporto pubblico, sulla ciclabilità, penso che so qui a Pavia, Brescia, ma anche a Salerno, c'è comunque un fortissimo ricorso all'auto privata, in alcuni casi anche non giustificato dalle dimensioni dei centri urbani. Quindi i fattori variano, ma l'emergenza resta. L'anno scorso, a fronte di dati allarmanti sullo smog, al Ministero dell'Ambiente fu istituito un coordinamento nazionale con sindaci e regioni. Fabio Romeo, della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente. Il protocollo antismog prevedeva uno stanziamento del Ministero di circa più di 250 milioni di euro. Di questi già un 50 dovrebbero essere stati attivati dal Ministero in campo di mobilità sostenibile, ulteriori 12 dovrebbero essere messi a disposizione nei prossimi giorni, insomma, con un decreto del Ministro, e gli altri, man mano che riusciremo ovviamente a sbloccare le risorse, verranno messi a disposizione. Si lavora dunque in maniera più organica, ma la strada è lunga. Se è vero che gli italiani detengono il record europeo di motorizzazione con circa 62 auto ogni 100 abitanti. Negli anni la situazione è però nettamente migliorata, bisogna dirlo, ma come vedremo in questo focus sulla mobilità c'è ancora molto da fare sia nel privato che nella pubblica amministrazione, con investimenti ad esempio mirati a potenziare l'uso di bici e mezzi pubblici. Rispetto solo a 5 anni fa, però, le singole iniziative di alcune città fanno ben sperare e immaginare un miglioramento continuo. Ad esempio, a Pesaro è stata progettata la Bicipolitana, una sorta di metropolitana di superficie dove possono circolare solo bici tradizionali o elettriche. Ce ne parla il sindaco Matteo Ricci. La resistenza innanzitutto è stata una resistenza culturale, cioè di chi ti diceva: ma sarà meglio che pensate a mettere a posto le strade invece di fare le ciclabili, come se le due cose non fossero parte della stessa strategia. Più persone vanno in bicicletta, meno macchine hai sulle strade. Più persone vanno in bicicletta in sicurezza, meno incidenti gravi hai. E quindi le due cose erano complementari. Però all'inizio c'è stata una fatica culturale e poi c'è stata però una grande determinazione nel cercare le risorse. E abbiamo vinto un sacco di bandi europei, bandi regionali sulla mobilità sostenibile. Legambiente ha calcolato che un pesarese su 3 usa tutti i giorni la bicicletta, e questo grazie a una scelta strategica che abbiamo fatto circa 10 anni fa, per cui abbiamo detto che una città di 100.000 abitanti all'80% con territorio pianeggiante non ha bisogno della metropolitana, ma la nostra metropolitana sarebbe diventata la bicicletta. Ci siamo inventati la bicipolitana. metropolitana, un sistema di piste ciclabili costruito strategicamente come si costruiscono le linee della metropolitana, appunto per raggiungere luoghi strategici della città, colorate, numerate come le linee della metropolitana, e chiunque venga a Pesaro, invece di avere la cartina dell'Uban o della metro, avrà la cartina della bicipolitana. Siamo già arrivati a 87 chilometri, il nostro obiettivo è arrivare a 100 chilometri e al tempo stesso stiamo costruendo un pezzo di economia nuova, perché sono sempre di più le famiglie che cercano questo tipo di infrastruttura per le loro vacanze. Ne abbiamo dei tratti bellissimi che collegano il porto di Pesaro, il porto di Fano o lungo il fiume della città. Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi. Altra città che sta cominciando a muoversi nella giusta direzione da anni è Milano. Il 9 novembre del 2012 veniva approvato il piano urbano della mobilità sostenibile, un progetto portato avanti anche dall'attuale giunta, Marco Granelli, assessore mobilità e ambiente. Come amministrazione comunale stiamo lavorando per inasprire ulteriormente le regole di accesso in area C, cioè nel centro storico, bloccando definitivamente ormai tutti gli Euro 3 diesel e iniziando un percorso graduale per bloccare tutti gli Euro 4 diesel. Nel giro di un anno bloccheremo anche questi ingressi, ma soprattutto stiamo potenziando la situazione del bike sharing. Noi abbiamo 800.000 auto che entrano ogni giorno da fuori Milano. Su questo è importante favorire l'ultimo miglio, cioè permettere a chi viene a Milano in treno poi di avere poi in città un'integrazione tariffaria con l'abbonamento del trasporto pubblico, oppure l'integrazione con lo sharing, sia il bike sharing che il car sharing. Entro metà dicembre partirà un anticipo dell'orario sulla metropolitana di circa mezz'ora. Arrivederci Roma, goodbye. Romani sempre più insoddisfatti invece della loro città, in particolare della qualità dei mezzi pubblici. A certificarlo è l'indagine pubblicata dall'Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici. E mentre il sindaco di Roma, Virginia Raggi, annuncia che verranno avviati i cantieri della funivia urbana Casalotti-Battistini, quali sono gli interventi immediati su cui si sta lavorando? Il punto con l'assessore ai trasporti del Comune di Roma, Linda Meleo, al microfono di Alessandra Schepisi. Siamo già al lavoro da qualche mese per cercare di riportare ATAC a una situazione di servizio quantomeno soddisfacente. Le misure principali che stanno per essere introdotte riguardano l'arrivo di questi nuovi 150 bus che saranno messi in circolazione a partire da fine mese fino a gennaio. Ci saranno quindi anche novità, perché queste vetture saranno posizionate prevalentemente a servizio anche delle periferie, e poi avvieremo anche un programma specifico antievasione per cercare anche di intervenire anche sull'evasione tariffaria, che si aggira intorno credo al 30-40%. I bus saranno tutti a metano? I bus avranno un'alimentazione anche a metano. In particolar modo però vorrei anche annunciare che arriveranno altre vetture di qui a qualche mese, sono legate a un bando regionale, quindi ai fondi regionali del POR. Quindi abbiamo 60 bus a metano che arriveranno in aggiunta a questi 150. Quindi 210 autobus in arrivo. Per capire le proporzioni, quanti sono i mezzi in circolazione attualmente nella capitale? Ci aggiriamo nell'ordine dei 1200-1250 in questo momento. È un passaggio incrementale che ovviamente da solo non basterà, però per superare alcune criticità del momento sono sicuramente un arrivo importante, ecco, per tutti i cittadini e per la città. Abbiamo già una mappa di massima, oltre a queste tre, delle ulteriori preferenziali che intendiamo introdurre in città. Questo perché pensiamo che, oltre appunto ai nuovi bus, è importante aumentare la velocità commerciale degli autobus, cioè la capacità di raggiungere in orario e senza ritardi le destinazioni. Situazione difficile anche a Napoli, dove da ottobre e fino a marzo 2017 si è deciso di tornare al blocco del traffico per alcuni veicoli. Raffaele Del Giudice, vice sindaco di Napoli e assessore all'ambiente, al microfono di Anna Rita D'Ambrosio. Ordinanze, limitazione ai veicoli inquinanti. Seconda cosa, estensioni graduali delle zone a traffico limitato, e questo non calandolo dall'altro ma chiedendo l'aiuto dei commercianti. Terzo provvedimento, la riduzione del biglietto del trasporto urbano a un euro in occasione delle domeniche ecologiche. E la quarta cosa nel questo parchetto che noi abbiamo fatto è quella di fare una manutenzione del verde che ci ha consentito di non fare delle cosiddette capitozzature, la macellazione vegetale, ma abbiamo lasciato la chioma un po' più vistosa agli alberi in modo da avere anche una produzione di ossigeno e tutti gli interventi utili che questi alberi poi possono fare. Altro intervento che reputiamo particolarmente importante è quello di aver fatto il taxi pooling, cioè con 2 euro è possibile prendere i tassi. Infine, l'aspetto più importante, noi abbiamo fatto per la prima volta nella storia di Napoli, che crediamo di essere una delle prime città d'Italia, a fare un'ordinanza insieme alla Capitaneria di Porto e all'autorità portuale che obbliga le navi in attracco al molo di passare ad un carburante a basso contenuto di zolfo. Come fly with me, let's fly away. If you can. E dunque, tra ordinanze e limitazioni c'è anche la ricerca che per fortuna va avanti e procede a passi rapidi. L'obiettivo è quello di arrivare a un trasporto che produca sempre meno emissioni nocive. Nel settore della mobilità sostenibile un ruolo centrale lo stanno giocando poi soprattutto le nuove tecnologie, quelle app che ci permettono di effettuare il car sharing, il bike sharing e che ci permettono di ottimizzare gli spostamenti avendo informazioni sul traffico. Insomma, le possibilità ci sono e sono tante, ed è anche il momento di tenere il passo sostenuto e non restare indietro. Come fly with me, let's fly away. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.